Kosovo, il presidente Hashim Thaçi accusato di crimini di guerra. Russia avvia il referendum per il super zar Putin. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. The president of Kosovo has been accused of war crimes, including the murders of nearly 100 people. Vote is like a referendum which would allow Vladimir Putin to stay in power after 2024. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Anche quest'oggi in redazione abbiamo ruotato il mappamondo per raccontarvi fatti e notizie che arrivano al di fuori dei confini italiani, ma che inevitabilmente avranno ripercussioni anche su di noi. Questa è un po' la missione di Nessun Luogo Lontano, quotidianamente e tutti i giorni. Con me ci sono Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia ritroviamo Roberta Frisani. 349-238-6666, ormai lo conoscete, il numero per mandare sms, whatsapp, per porre domande, per commentare, per criticare, anche in maniera feroce, perché no, ma sempre sostanziando e allegando contenuti alle vostre critiche. Detto ciò, sono qua che vi leggo anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, vi leggo su Twitter se amate cinguettare, due gli account, il primo Nessun Luogo 24, il secondo è il mio personale ed è Giampaz. Come ogni giorno, la prima cosa da fare, Roberta Frisani, è sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta a commentare gli ultimissimi eventi che arrivano dalla Libia. Lato Tobruk, o Bengasi se preferite, quindi lato Haftar. Il presidente del Parlamento libico di Tobruk, voi sapete che vi sono a tutti gli effetti due consigli legislativi e due organi esecutivi nelle due Libie che si stanno contendendo il potere in questo momento. Ebbene, Saleh Issa ha ribadito l'esigenza di un intervento militare diretto dell'Egitto nel caso in cui le forze di Tripoli dovessero muovere l'attacco su Sirte. Vi abbiamo raccontato in questi giorni di come Sirte sia davvero forse la battaglia campale per il controllo della Libia, perché da Sirte si apre tutto la Cirenaica e quindi il controllo delle postazioni petrolifere, e poi navigando, o meglio percorrendo la strada lungo la costa, c'è Brega, Sdabia, Ras Lanuf, tutti i terminal petroliferi che Haftar da qualche tempo ha sostanzialmente chiuso. Saleh Issa, presidente del Parlamento, ha fatto eco alle dichiarazioni di Al-Sisi dello scorso sabato e ha dichiarato che un intervento egiziano in Libia sarebbe legittimo se la milizia terrorista armata varcasse la linea rossa, così Saleh Issa definisce le forze di Tripoli, che ricordiamo sono invece riconosciute dalla comunità internazionale, in particolare dalle Nazioni Unite, supportate dalla Turchia anche militarmente e supportate anche dall'Italia. A proposito di Italia, proprio ieri vi raccontavamo e vi davamo brevemente conto della visita del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio proprio a Tripoli. Ha parlato brevemente Di Maio, ve lo faccio sentire. Il presidente Sarraj mi ha consegnato una proposta libica di modifica del Memorandum of Understanding del 2017 in materia migratoria, riformulata dall'Italia e sottoposta alla controparte libica il 9 febbraio scorso. Sostanzialmente quello che, anche secondo fonti libiche che abbiamo contattato da poco, la Libia accoglierebbe le richieste di tutela rispetto dei diritti dei migranti avanzate proprio dal governo italiano. C'è un po' di scetticismo attorno al dossier migrazione, perché da sempre sapete che i centri di detenzione libici sono sotto il mirino delle varie organizzazioni. La Guardia Costiera Libica, nonostante gli sforzi del governo italiano, ancora, per usare forse un'espressione poco felice, fa un po' acqua da tutte le parti, non è ancora un guardacoste a tutti gli effetti. Come leggere questa dichiarazione? Se i libici accetteranno di accogliere anche i diritti umani in seno a questo memorandum di accordo, forse potrebbe essere il primo passo per una normalizzazione. Se così non fosse, sarebbe, secondo i detrattori di questo accordo, l'ennesimo scaricabarile, cioè far gestire il dossier immigrazione a un paese terzo. Peraltro Di Maio proprio ieri si è tolto in maniera, devo dire, elegante ma anche molto pungente un sassolino dalle scarpe, perché ha detto l'embargo che la missione europea militare Irini dovrebbe far rispettare dovrebbe essere rispettato da ambo i lati, e faceva evidentemente riferimento a quella serie di cargo turchi di cui vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, che hanno sostanzialmente violato l'embargo portando carri armati e militari russi fino a Misurata. Secondo Tripoli, secondo Sarraj, non è affatto una violazione dell'embargo perché vi è un accordo bilaterale alla luce del sole, anche economico, tra Ankara e Tripoli. E a proposito di Libia e di immigrazione, è uscito il rapporto annuale dell'Ufficio Europeo per il Sostegno all'Asilo, che ha evidenziato un aumento dal 2015 delle domande di richiesta d'asilo nell'Unione Europea. Nel 2019 sono state 740.000, l'aumento è stato dell'11% rispetto al 2018. Il dato è interessante perché avviene a fronte invece di un calo dell'immigrazione irregolare sulla rotta del Mediterraneo centrale. Da cosa deriva allora questa distonia tra le due cifre? Beh, molto semplice, l'aumento delle richieste di protezione internazionale arriva dai cittadini del Venezuela e di altri paesi dell'America Latina. Sapete, il Venezuela in preda a una crisi economica devastante, anche una crisi politica, spesse volte sull'orlo della guerra civile. Ebbene, 46.000 le richieste di cittadini venezuelani, e sono i terzi tra le nazionalità che più hanno fatto domanda d'asilo, 103% rispetto all'anno precedente. In testa si confermano comunque i siriani, 80.000 domande, e gli afghani, 61.000 domande, che storicamente però arrivano in Europa, ma in particolare in Italia, dall'altra rotta, quella che arriva dalla Turchia, la rotta dell'est. E infine Stati Uniti, stavo buttando l'occhio alla CNN, ma non solo, anche nelle prime ore delle prime informazioni del mattino si riprende un video scioccante che ancora una volta mette punta il dito e punta i riflettori sulla brutalità della polizia statunitense dopo, lo ricorderete, l'uccisione dell'afroamericano George Floyd. Siamo quasi a un mese dalla sua morte. Questa volta la vittima è un ispanico, Carlos Ingram Lopez, 27 anni, è morto durante l'arresto a Tucson in Arizona. Il video è stato reso pubblico soltanto ieri dalla polizia, mentre il fattaccio risale allo scorso 21 aprile. Tre agenti inseguono il giovane dentro una casa per arrestarlo, il giovane viene ammanettato e viene tenuto a faccia a terra per 12 minuti, chiede dell'acqua, chiede dei genitori, dice che non riesce a respirare, lo dice in spagnolo, lo dice in inglese e poi alla fine muore. L'esito della pubblicazione di questo video è che i tre poliziotti hanno presentato immediatamente le dimissioni, e addirittura il capo della polizia, Chris Magnus, dopo la diffusione di questo video si è detto pronto a dare anch'egli le dimissioni. Il tutto avviene in una città, Tucson, che è guidata da Regina Romero, che è la prima donna di origine latina a guidare una città che è largamente ispanica. La prima cittadina si è detta profondamente turbata e indignata, e sono certo che ancora una volta questo dossier tornerà al centro di una delle puntate di Nessun Luogo Lontano. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, qualcuno già pone dubbi sulla regolarità del referendum in Russia. Fra pochissimo ve ne darò naturalmente conto con i miei ospiti, non prima però, Roberta, di essere andati in Kosovo. Ni mundësia të tillë, ni ofertët, ni kërkesat të tillë do t'i përgjigjem. Me transparencën e plotë. Proprio ieri, in cui dedicavamo una puntata alla giustizia internazionale, al principio di giurisdizione universale per quella causa che alcuni magistrati, in particolare un magistrato tedesco, sta intentando contro tre cittadini siriani che in qualche modo si erano mescolati al flusso di profughi, un medico e due ex alti ufficiali delle truppe di Bashar al-Assad. Ebbene, proprio ieri in chiusura di trasmissione le agenzie battevano una notizia che per forza di cose non siamo riusciti a darvi e approfondire. Lo facciamo quest'oggi. E la notizia è una notizia bomba e promette di veramente ridisegnare tutti gli assetti, gli equilibri geopolitici dei Balcani. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato accusato di aver compiuto crimini di guerra e crimini contro l'umanità negli anni tra il 1998 e il 1999. Ai tempi si combatteva per l'indipendenza del Kosovo contro la Serbia, poi la recente storia dei Balcani ci ha consegnato quello che sappiamo, con un Kosovo che è una ferita aperta dal punto di vista della Serbia, evidentemente, uno stato semi-riconosciuto. Ancora ricordo come bizzarro, stupefacente passare il confine tra Serbia e Kosovo, la preghiera alle guardie doganali di non timbrare sostanzialmente il passaporto, perché se ci fosse il timbro kosovaro al rientro in Serbia non sarebbe riconosciuto. Strane storture, diciamo, geopolitiche che hanno ricaduta anche su quei cittadini, su quei turisti che si avventurano in Kosovo. Da dove arriva l'accusa? Arriva dallo Special Prosecutor's Office, che è un organo con sede all'AIA che sta proprio indagando sui crimini eventualmente commessi in quegli anni sanguinosi e duri. Altri 9 imputati potrebbero andare presto alla sbarra. La voce che avete appena sentito era proprio quella di Hashim Thaci, che ha detto testualmente: risponderà alle accuse con la massima trasparenza. Thaci all'epoca era parte della milizia che combatteva contro i serbi. Per cercare di capire qualcosa in più di questa questione, il Kosovo è molto spesso ai margini delle cronache italiane ed europee, ci soccorre Andrea Lorenzo Capussela, che è ricercatore alla London School of Economics e autore del libro, peraltro, State Building in Kosovo, Democracy, Corruption and the EU in the Balkans. Buongiorno professor Capussela, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto un commento a caldo su questa notizia bomba. Il primo effetto l'abbiamo visto immediatamente: nei prossimi giorni, addirittura se non domani, Thaci si sarebbe dovuto recare a Washington per un colloquio con la mediazione della Casa Bianca proprio con i serbi, per cercare di ricucire questo strappo, questa ferita. Non andrà lui, andrà il primo ministro. Intanto un suo primo commento a caldo, professore. Dunque, non è una grandissima sorpresa, perché 10 anni fa circa il Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto fatto dal senatore svizzero Dick Marty, che in passato come procuratore del cantone aveva collaborato con i giudici italiani, una persona molto sensata e rispettata. Sì. Lui aveva detto che c'erano prove stringenti del fatto che l'esercito di liberazione del Kosovo aveva commesso gravi crimini, crimini di guerra, la cui responsabilità è ascrivibile ai loro capi. Sì. In particolare parlava di Hashim Thaci. Mm. Questo lo si sa da 10 anni. Sì. La novità in un certo senso è che di 10 anni dopo, ossia 20 anni dopo i crimini, la giustizia si è mossa. Sì. Questa è la cosa nuova. Sì. Questo tribunale che si è mosso formalmente è un tribunale del Kosovo, ma in realtà è stato voluto fortemente dall'Unione Europea, è finanziato dall'Unione Europea, di fatto è gestito dall'Unione Europea, qui è separato dal Kosovo. La novità secondo me è questa, e il principale effetto di questa messa in stato d'accusa è proprio la ripercussione sul dialogo con la Serbia. Sì. Perché questo incontro a Washington in realtà era una cosa molto criticata, è una cosa voluta soprattutto da Trump, che desidera avere un grande successo di politica estera, sperava di apparire come il pacificatore dei Balcani, e questo indictment impedisce a Thaci di andare e non ci sarà di fatto questo incontro. Ecco, l'annullamento di questo viaggio a Washington forse va anche a minare in qualche modo e forse anche definitivamente la credibilità internazionale del presidente kosovaro. Il professor Andrea Lorenzo Capussela, London School of Economics, esperto di Balcani e soprattutto di Kosovo, sottolineava anche un altro aspetto: il desiderio e la volontà di Donald Trump di entrare a gamba tesa, con una mediazione peraltro molto complessa, professore, in un in un settore, in un'area geografica, i Balcani, che forse, come dire, dal punto di vista fisiologico e geopolitico sarebbero un po' più di competenza europea. Perché l'Europa si è fatta strappare un dossier così importante? Oppure è ancora presente l'Unione Europea nei Balcani con la sua credibilità diplomatica e la sua rete di relazioni? È assolutamente presente, è il primo donatore dei Balcani. Tutti i paesi dei Balcani aspirano a cedere, a diventare membri dell'Unione. Il problema dell'Unione Europea dappertutto, in particolare nei Balcani, è che la politica estera è una politica intergovernativa, fatta sulla base del minimo comune denominatore di 27 governi, e questo minimo comune denominatore è piccolo e ogni tanto si sposta. Sul Kosovo, inoltre, i paesi europei non sono unanimi, perché ci sono 5 paesi europei che hanno scelto di non riconoscere l'indipendenza del Kosovo e tuttora non la riconoscono, e quindi l'Unione Europea stessa non la riconosce. Quindi questa è la spiegazione. Sì. Del perché gli americani comunque mantengono, quando lo vogliono esercitare, un ruolo egemonico. Sì. O largamente egemonico dal punto di vista politico nei Balcani. La voce, il commento, l'analisi di Andrea Lorenzo Capussela, esperto di Balcani, London School of Economics, ha anche scritto un libro che era proprio State Building in Kosovo, Democracy, Corruption and the EU, cioè il ruolo dell'Unione Europea nei Balcani. Vengo ai vostri messaggi, 349-238-6666, Daniele si chiede perché aspettare 22 anni per un'indagine internazionale. Qualcun altro torna a quello, non so se lo ricordate, quella operazione Serbia-Kosovo con lo scambio di territori. In territorio kosovaro vi sono minoranze serve e viceversa, e quindi un'idea era uno scambio a tutti gli effetti di quei territori in cui vivevano le rispettive minoranze, per dare un'ulteriore continuità etno-territoriale, per così dire, alle due entità, uno stato a tutti gli effetti riconosciuto. Un Kosovo invece che, come avete sentito dalle parole del professor Capussela, soffre di una mancanza di legittimazione proprio da parte dell'Unione Europea, con singole relazioni diplomatiche coi singoli stati europei. Questo evidentemente non giova alla politica estera dell'Unione Europea e permette agli Stati Uniti, pensate, da oltreoceano di andare a infilarsi, a mettere il naso, perdonatemi forse l'espressione un po' troppo prosaica, in una questione, dossier Balcani, stabilizzazione dell'area, crescita economica, eventuale annessione dell'Unione Europea, che insomma forse dovrebbe essere gestita efficacemente proprio dall'Unione Europea. Dicevo, l'operazione Serbia-Kosovo, scrive un ascoltatore, specie se con scambi territoriali servirebbe a Trump anche per creare un precedente favorevole al suo piano per Israele e Palestina, e questa è un'osservazione interessante, quasi un laboratorio sembra suggerire questo ascoltatore. Sapete proprio che l'annessione che Netanyahu vuole portare avanti col beneplacito di Donald Trump prevede più o meno uno scambio di territori, comunque un 30%, 70%, ma lo avete sentito dal GR di Sergio Nava, si è fatta sentire l'ala armata da Gaza, quella di Hamas, che ha assolutamente bollato come inconcepibile quello che dovrebbe sulla carta accadere fra pochissimi giorni. Tra pochissimo torniamo su questo tema, non prima di avervi anticipato che tantissimi di voi stanno scrivendo sulla questione del referendum di Vladimir Putin, e tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Qualcuno dice perché Kosovo sì e Crimea no, credo che la domanda sia riferita a eventuali crimini di guerra. Qualcun altro, l'Europa rimane sempre filo serba, ma questa volta vi siete dati la zappa sui piedi, per fortuna vincerà Albin Kurti e Kosova, così scrive l'ascoltatore, sarà come deve essere, Albania. Vediamo se abbiamo ristabilito il collegamento col professor Capussela, la linea non era ottimale. Professore, rieccoci. Le chiederei questo aspetto, ecco, più prettamente giudiziario se vogliamo. Se l'iter giudiziario internazionale dovesse andare avanti, oltre alla delegittimizzazione politica, vi sarebbe, come dire, un Tashi che deve andare alla sbarra. A quel punto il governo kosovaro cosa dovrebbe fare? Dunque, in realtà la questione di Tashi e il destino del governo sono separati, perché è una repubblica parlamentare, lui è un presidente come da noi lo è Mattarella, e quello che succede a lui non ricade direttamente sul governo formalmente. Di fatto Tashi ha appena completato un'operazione tramite la quale è riuscito, con l'aiuto dei suoi colleghi, delle vecchie elite che governano il Kosovo da una ventina d'anni, sono riusciti a fare cadere un governo formato da un nuovo partito, secondo me un partito promettente, per ristabilire un governo formato solamente dalle vecchie elite. Siccome Tashi è stato il regista politico di questa operazione, questa messa in stato d'accusa potrebbe indebolirlo e indebolire anche il governo. Certo. In realtà gli effetti politici non sono così ovvi, perché da un lato in Kosovo c'è ancora l'idea, mantenuta soprattutto da persone come Tashi e altri, che la guerra di liberazione è stata una guerra pura. Loro usano questa parola, pura. E noi sappiamo che nessuna guerra è pura, tantomeno una guerra civile. Certo. Sicuramente crimini ci sono stati, i crimini sono già stati provati in alcuni casi dal Tribunale dell'Aia, non si è riuscito a stabilire che ne fossero responsabili alcuni comandanti kosovari, ma i crimini sono stabiliti. Però la popolazione sembra ancora restia ad accettare questa idea, e anche questo nuovo partito che ha sfidato le vecchie elite, che ha appena fatto un governo, quel governo che da poco è stato fatto cadere, anche questo governo, anche questo partito è molto patriottico, è contrario all'idea di questa giustizia semi-internazionale, di questa corte che adesso sta mettendo sotto accusa Tashi, per cui le ricadute sulla politica interna di questo messo in stato d'accusa non sono ovvie. Comunque questo governo appena ricreato dalle vecchie elite, che sono dei pessimi governanti per il Kosovo, sono una delle principali ragioni del fatto che il Kosovo non si sta sviluppando. Sì. Questo governo è debole, questo messo in stato d'accusa non necessariamente lo indebolisce, ma è debole. Anzi, direi che quasi paradossalmente, rendendo di fatto impossibile quell'accordo con la Serbia, che secondo me sarebbe stato un pessimo accordo sulla base del principio di scambio di territori, sì, come il Trattato di Losanna del 22, insomma, sì, una cosa di un'altra epoca. Questo accordo sarebbe stato molto impopolare in Kosovo, se l'avessero fatto il governo si sarebbe fortemente indebolito. Questa messa in stato d'accusa gli rende impossibile fare l'accordo, quindi li priva di un pericolo. Quindi paradossalmente, insomma, è così ovvio che le ricadute saranno fortissime, sì, internamente. L'analisi del professor Andrea Lorenzo Capussela, London School of Economics, è un tema delicato. Il Kosovo è un dossier sul quale in pochi si cimentano, per cui ringraziamo il professore per averci aiutato a gettare un po' di luce su una regione dei Balcani importantissima, nevralgica, la cui stabilità è fondamentale anche per la stessa Unione Europea. Ricordo il libro del professore, State Building in Kosovo, Democracy, Corruption and the EU, cioè l'Unione Europea in the Balkans, edizioni IB Tauris. Professor Capussela, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, un ascoltatore dice: ma dai, parlate dei crimini spaventosi dei serbi, qua però stiamo parlando della presidenza, oltre che di 9 ex comandanti dell'esercito di liberazione kosovaro che hanno commesso dei crimini secondo questa sezione speciale creata all'AIA per indagare sui fatti tra il 1998 e il 1999. Tempi e luoghi apparentemente lontani, ma quelle recenti ferite storiche in realtà continuano a sanguinare, ne sia prova la difficilissima relazione tra Serbia e Kosovo. Non neghiamo assolutamente quello che è stato commesso dai serbi, ma i fatti che sono attribuiti a Tasci e agli altri sono riferiti appunto a quel periodo quando essi combatterono contro i serbi. Poi vi fu la reazione serba, poi vi fu l'intervento dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, e le cose sono andate come sappiamo. In particolare vi segnalo che tra i capi d'accusa vi sarebbero omicidi indiscriminati di almeno un centinaio di persone, violenze e torture. Certo, la giustizia internazionale spesso soffre di tempi particolarmente lunghi e questo a volte può, come dire, amplificare un certo dubbio, può far aleggiare dubbi anche, come dire, di strumentalizzazione politica, però tant'è. Proprio ieri parlavamo della virtuosa iniziativa di un procuratore tedesco che, in omaggio al principio di giurisdizione internazionale, stava dando la caccia ai gerarchi siriani colpevoli degli stessi crimini. Detto ciò, piccola pausa, la borsa e poi la seconda pagina. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta: Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Se solo adesso vi siete sintonizzati, siete in tempo per ascoltare la seconda pagina di Nessun luogo è lontano. Tra pochissimo vi porterò in Russia, non prima di avervi dato conto di un po' di commenti che sono arrivati. La nostra prima pagina infatti era dedicata alle accuse che sono state mosse da un organismo giudiziario speciale che è stato costituito all'AIA, che indaga sui crimini di guerra commessi tra il 98 e il 99 durante la cosiddetta guerra di liberazione del Kosovo. Un po' di messaggi arrivati al 349-238-6666. Un mio amico serbo, scrive un ascoltatore, mi parlava di grosse ingerenze economiche cinesi in territorio serbo. La mossa di Trump potrebbe essere collegata a una sorta di lotta di posizione e influenza per entrare nei Balcani. E questo messaggio, al quale onestamente non riesco a rispondere con dovizia di particolari, ma faccio ammenda, è ignoranza mia sui Balcani, invece mi dà il destro per sottolineare l'estrema importanza di questa regione. Un ascoltatore con una certa irriverenza e ironia scrive: il Kosovo è importante per l'Unione Europea, mette degli emoticon che si sbellicano dal ridere e mi dice che sono un comico. Ecco, i Balcani sono fondamentali, la storia recente ce l'ha insegnato, la stabilità dei Balcani, il problema della corruzione, della polizia, i flussi migratori, il transito di droga. Insomma, ci sarebbe da fare 10 puntate almeno su quanto la stabilità dei Balcani è conveniente all'Unione Europea e naturalmente anche all'Italia. Invece c'è qualcun altro che torna a quella che è stata la visita lampo di Luigi Di Maio ieri a Tripoli. Un ascoltatore, Walter, dice: Di Maio cerca di trovare un ruolo dell'Italia in Libia che oramai non ha più da tempo. Così Walter sembra, come dire, guardando dall'esterno e senza troppi insight, come dire, senza troppe notizie di prima mano, un po' un rincorrere il ruolo molto più aggressivo della Turchia. È anche vero che però il presidente Sarraj ha sempre ribadito che con l'Italia c'è un legame speciale e molti analisti sostengono che c'è ancora il tempo per recuperare terreno. Io credo che la risposta l'avremo tra qualche settimana, tra qualche mese. Primo, se cadrà Sirte, se la Libia sarà riunificata sotto Tripoli, sotto Sarraj. Secondo, se verranno riaperti, come già in parte è successo sull'aeroporto di Tripoli, ce lo diceva l'ambasciatore Buccino, qualche appalto, qualche business anche per le imprese italiane. Quello evidentemente è un segnale della vicinanza tra Libia e Italia. Detto ciò, adesso Roberta Fisani ci porta in Russia e ci fa domandare chi è costui. He's a strong guy. Putin is smart, tough. The most powerful man in the world. Buongiorno e ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, anche Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di Russia. Hai sentito Antonella Scott? He's a tough guy, the strongest in the world. Di chi stiamo parlando, Antonella Scott? L'uomo che sta chiedendo di votare perché possa rimanere ancora più a lungo presidente, senza più nessun vincolo legato ai mandati precedenti. Sì. Vladimir Putin oggi ha fatto iniziare un referendum proprio per aiutare il distanziamento sociale, viene spalmato in più giorni fino al primo luglio prossimo, per votare di fatto una nuova clausola della Costituzione in cui si dice che il Presidente può rimanere in carica non più di due mandati, sì, di sei anni ciascuno, due mandati. Però questo non vale per il presidente attuale e quello passato, quindi Medvedev, non valgono i mandati precedenti, quindi si azzera, l'orologio viene riportato a zero e Putin potrà ripresentarsi e rimanere in teoria, se vorrà, fino al 2036. Ecco, Antonella Scott, giornalista del Sole 24 Ore, segue le vicende russe da tempo. Quando dici in teoria, in realtà questo referendum è già passato dalla Duma. L'esito popolare mi sembra sia scontato, oppure l'opera e le parole tuonanti di oppositori come Navalny potrebbero, come dire, spingere qualche cittadino russo a cambiare idea? I sondaggi lo danno al 50 e qualcosa per cento, 59%, sì, come... Sì. Tu cosa... Senti, togliti i panni della cronista. Metti quelli dell'analista e anche un po' della maga, sfreghiamo la sfera di cristallo, via. Ah, non c'è da essere dei gran maghi, perché di sicuro passerà, di sicuro ci sarà più del 50% di affluenza e sicuramente passerà. La cosa difficile, poi forse qui ci vorrebbe veramente la sfera di cristallo, è capire quanto del consenso che raccoglierà è vero consenso, quanto è frutto di pressioni, magari di datori di lavoro che dicono ai loro dipendenti: chi non vota non gli do i bonus, non è più sicuro del suo lavoro, quanto invece sarà ancora manipolato da frodi, certo, frodi che diventano ancora più facili, perché appunto immaginate su sette giorni di schede, nei seggi di notte, seggi che proprio per aiutare il distanziamento sociale diventa possibile il voto elettronico a Mosca, a Nizhny Novgorod, è possibile chiedere di arrivare i funzionari elettorali nelle proprie case, quindi i margini non ci saranno, ci saranno vincoli molto severi per gli osservatori, margini per gestire un pochino, sì, i risultati, diciamo così, ci sono, sì, però questo non toglie da una parte che c'è una grossissima fetta di persone che è veramente forse anche disgustata, possiamo dire, da questa via facile che Putin ha scelto per rimanere, tra l'altro aggiungendo a questo referendum un sacco di emendamenti che in realtà sono poi quelli che attireranno le persone, perché ci sono emendamenti per cui verrà iscritto nella Costituzione il diritto al salario minimo, all'indicizzazione delle persone, a valori ultraconservatori che che fanno veramente presa su molti russi, come la sacralità del matrimonio tra uomo e donna e così via, sì. Tantissimi argomenti, sì. Quello cruciale è appunto quello che riguarda Putin. Di sicuro ci sono persone che lo ritengono inaccettabile e io penso che questo sia una parte della popolazione molto importante e sempre più convinta della propria critica nei confronti di Putin, però ci sono ancora tantissimi che forse magari chiudendo gli occhi su questo dettaglio, diciamo, sì. Guarderanno invece appunto alla difesa degli anziani, dello stato sociale, certo. E voteranno a favore, per cui c'è chi dice addirittura 60-70%. Potrebbe essere una cifra vicina, sì. A quello che a cui assisteremo. Lo ripeto, si inizia a votare quest'oggi, si conclude il primo luglio, lo abbiamo spiegato Antonella Scott, con alcune isole per così dire virtuali. A Mosca si vota anche online, la qualcosa ha fatto alzare gli scudi al grande oppositore Navalny. E arrivano un po' di messaggi, Antonella Scott, proprio su Navalny. Per esempio, un ascoltatore scrive: piaccia o no, ma il tanto osannato e democratico Navalny ha percentuale di gradimento molto vicina a quelle di più Europa in Italia, e così insomma getta anche una stilettata a una formazione politica nostrana. È così, dal punto di vista dei sondaggi, quell'opposizione conta poco più di zero, e se sì, per quale motivo non riesce a ritagliarsi? Non è solo lui, dobbiamo considerare che Navalny non è l'opposizione, non è Navalny, quindi tutte le persone che, soprattutto tra i giovani, l'età media, che non condividono assolutamente questo referendum, tra l'altro appunto ricordiamo non vedono tutta questa urgenza nel chiamare la gente alle urne quando fino a ieri c'era un lockdown, sì. C'è stata una grande parata organizzata ieri sulla Piazza Rossa, proprio ieri, sì. Non c'era distanziamento, non c'erano mascherine, ma c'era un trionfo in salsa militare notevole. Io su questo volevo solleticarti, però ti farei una proposta, Antonella, stai con noi, andiamo a sentire come va la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Grazie a Eolo, internet ultraveloce raggiunge anche le imprese dei più piccoli comuni italiani. Scopri Eolo Impresa Start. Bastano 5 giorni per attivare la connessione e navighi fino a 100 mega senza limiti. In più hai un servizio di assistenza immediata sempre attivo. Il tutto con un prezzo in promozione da 50 euro al mese anziché 85. Per avere Eolo Impresa Start, chiama il numero verde 800 939 939 o vai su azienda.eolo.it. Eolo, internet dove gli altri non arrivano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua a accendere i riflettori sull'ultima mossa di Vladimir Putin, il referendum per andare a emendare la Costituzione. Su tutto c'è la possibilità che lo zar, come lo definiva una copertina dell'Economist di qualche anno fa, e a questo punto, se passerà il referendum, mi chiedo che cosa si dovrà inventare l'art director dell'Economist, forse un super zar. Perché? Perché Putin potrebbe rimanere al potere fino al 2036, 84 anni, tanto che la rete si è scatenata in alcuni casi con l'utilizzo di caricature, di video, di meme, con un Putin vecchissimo, con un Putin sempre giovane, presente in varie epoche storiche, come se fosse una sorta di alieno che alberga sulla Terra ormai da decenni, se non addirittura da secoli. Insomma, potere assoluto, così viene bollato soprattutto dai detrattori e dall'opposizione, però un'operazione fatta, come ricordava Antonella Scott, con una certa astuzia anche politica, parlando a una certa fetta della Russia. Torno ad Antonella Scott per entrare un po' meglio su questi temi, ma prima, Antonella, ti chiederei un bignamino, per così dire, ecco, molto veloce. Come sta andando l'economia russa? Così Giuseppe da Fiumicino vuole un piccolo squarcio sulla federazione che è stata travolta dal Covid-19, nonostante un ostentato negazionismo, ma l'economia come sta andando? I fondamentali russi? A questo punto per la Russia, la Russia è nella stessa situazione di tutto il resto del mondo, in cui si cerca disperatamente di immaginare quanto ci costerà la crisi del coronavirus, e quindi due mesi, che in Russia sono stati due mesi in cui si è chiesto alle aziende di continuare a cioè di lasciare le persone a casa, ma di continuare a pagarle. in cui ci sono stati si è unito il problema del coronavirus a quello del brusco calo dei prezzi del petrolio, che adesso si sono un pochino stabilizzati ma restano molto bassi, e quindi la salvezza per la Russia è stata le risorse e le riserve che avevano accumulato nel tempo e che ora permettono comunque di avere un cuscinetto di riserve della banca centrale, il fondo, lo chiamano il fondo per i tempi difficili, diciamo, il fondo sovrano, che consente di mantenere il rublo sostanzialmente stabile malgrado la discesa dei tassi di interesse, che finalmente, diciamo, sono stati costretti a scendere a dei livelli quasi simili, non certo ai nostri, certo. Però insomma 4%, 4,5% per la Russia sono davvero bassi ed è qualcosa di cui c'era tanto bisogno. Sì. Però anche qui c'è la grande incertezza su quanto inciderà una crisi di cui non si vede ancora la fine. Tra l'altro c'è da dire che in Russia l'epidemia è ancora, la Russia terzo paese al mondo per contagi, ha ancora aumenti di più di 7.000 casi al giorno, che sono meno di qualche settimana fa, insomma. Sì, infatti ricordavamo quella parata militare, la commemorazione per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, quanto fosse stata criticata, con nessun distanziamento sociale, nessuna mascherina, evidentemente. Volevo tornare però su quella che è la proposta contenuta nel referendum per il cambio della Costituzione. Per esempio sarà inserito, e facevi anche tu riferimento, un riferimento alla fede in Dio da parte dei russi. Il matrimonio viene definito come unione tra uomo e donna, mettendo formalmente fuori legge il matrimonio omosessuale. I bambini vengono definiti la principale priorità politica in Russia. Lo Stato si impegna a contribuire allo sviluppo morale, spirituale, fisico e intellettuale dei minori. C'è un passaggio, il nuovo testo della legge conterrà un passaggio in cui si dice: la Federazione Russa onora la memoria di coloro che hanno difeso la madre patria e difende la verità storica. Non è consentito sminuire l'eroismo del popolo nella difesa della patria. Sembra un lessico di altri tempi, Antonella Scotta, sembra un lessico di una Federazione Russa e di un leader che si rivolge al passato. Che cosa ci dicono queste parole dell'atteggiamento politico proprio? In realtà io credo che non siano tanto parole che fanno pensare al passato, proprio per la Russia, per la molta buona parte della popolazione, per cui questi emendamenti, queste parole che tu ricordavi, sono stati proprio scelti per spingerli per convincerli ad andare a votare e a votare sì, perché poi ricordiamo che gli emendamenti sono più di 200, sì, e che vanno a coprire appunto i temi di cui tu parlavi, poi qualunque cosa, l'ambiente, con gli animali, sì, la lingua russa, la difesa, ecco, tutto questo uno potrebbe dire: beh, sono d'accordo su questo ma non su quello, per me ho visioni più meno conservatrici sulla, ecco, invece è un pacchetto unico, mi sembra di prendere o lasciare, sei d'accordo sì o no, sì o no. Sì, diciamo che è insomma suscettibile di critiche da questo punto di vista, e naturalmente Antonella ti aspettiamo per andare a commentare quello che sarà l'esito, anche se abbiamo qualche sospetto su come andrà. Grazie mille Antonella Scott, giornalista Grazie Sole 24 Ore, esperta di Russia. Antonella, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Allora, ci sono un po' di reazioni, un po' di commenti a questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Qualcuno scrive: Putin ha dalla sua a tutti i militari, tanti imprenditori che appunto non ci fanno avere dubbi su quella che sarà la vittoria. Qualcun altro fa un plauso ai principi della Costituzione russa, se verrà emendato, che abbiamo appunto elencato, e sottolineava Antonella Scott questa, se volete, bizzarria, questo strano meccanismo per cui viene fatto un pacchetto unico in cui c'è un po' di tutto su tutti. Evidentemente il fatto che Vladimir Putin potrebbe rimanere al potere fino alla sua età di 84 anni, questo l'abbiamo già ribadito. Invece, siccome ho un minuto e mezzo, torno a quel commento dell'ascoltatore che parlava degli investimenti cinesi in Serbia. Gli ha fatto eco un ascoltatore che evidentemente ha percorso un'autostrada che passa da Belgrado, e narrava di una pubblicità cinese molto molto evidente. A questa dobbiamo sicuramente ricordare quello che è un grande progetto cinese, grande quantomeno in senso di sforzo titanico di cantieri, ecco, fisico. Quel progetto, se ricordate, la Via della Seta, che prevede un passaggio attraverso il porto del Pireo, che è il più grande porto europeo, se non erro, quantomeno nel Mediterraneo sicuramente, è il porto di Atene, sostanzialmente acquistato dai greci, dagli cinesi, scusatemi. C'è un progetto di costruzione di una rete ferroviaria che dovrebbe attraversare tutti i Balcani. Ecco, così facendo sostanzialmente quell'infrastruttura permetterebbe alle merci cinesi di arrivare in Nord Europa con un giorno di anticipo, pensate, rispetto alle vie tradizionali. Evidentemente da questo punto di vista esiste una zona di influenza cinese sui Balcani che probabilmente, come leggeva bene l'ascoltatore, l'Occidente, Donald Trump, l'amministrazione statunitense sta cercando quantomeno di contenere. Poi torno su Putin, perché alcuni ascoltatori scrivono che Putin ha dalla sua la stragrande maggioranza della popolazione. Qualcuno chiede: i cittadini russi all'estero potranno votare? Così Giuseppe. E qualche ascoltatore scrive: ho la moglie russa, andrà a votare al consolato, nessuno la forza e nessuno le dice chi votare. Torneremo sull'esito di questo referendum, ma adesso vi lascio con una parola. E con i ringraziamenti per essere stati all'ascolto, i ringraziamenti vanno anche a tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.